Prova quello più vicino. Ci siamo? Che si fa? Si inizia? Cominciamo? Vai. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro di Montevarchi. Stasera, Pumino, abbiamo con noi una leggenda recente del Montevarchi, un giocatore che è stato simbolo della rinascita dell'Aquila. Proprio così, Davide, stasera abbiamo una leggenda, suo malgrado, diciamo, è diventata una leggenda per il popolo rossoblù, per l'intera città di Montevarchi. E proprio così il nostro volo alla ricerca della montevarchinità, sotto la regia stasera del preziosissimo regista Marco Brambilla, abbiamo ospite in studio con noi Federico Cuccoli. Ciao a tutti montevarchini e ciao a tutti i tifosi. Bene Federico, allora iniziamo. La prima domanda te la faccio io: com'è stato venire a Montevarchi dopo che comunque giocavi a calcio da diversi anni? Anzi, raccontaci un po' com'è stata la tua carriera prima del Montevarchi e com'è proseguita, perché ancora stai giocando. La carriera è un po', cioè, dai 17 che sono andato in categoria subito, in seconda categoria a Pendisco, fino ai 30 è stato un calcio un po' così, lo vivevo come divertimento proprio, cioè non è che il calcio lo amavo proprio come l'ho amato dopo i 30 anni, che la passione proprio il calcio me l'ha fatta venire un allenatore, il Fantini, che mi ha mentalizzato come è veramente il calcio, come va vissuto, insomma, no facendo serate, insomma. Cioè, se tu fai una cosa devi fare quella, non devi fare tante altre cose. Quindi da 30 anni poi, insomma, ho vissuto un altro calcio, cioè mi piaceva proprio andare già la domenica a pallone, invece per me era stare in gruppo. L'importante era stare in gruppo, poi la domenica mi stava fatica andare a giocare. Invece da 30 anni poi, insomma, sono un po' maturato, poco, esatto. Però un po'. Aveva avuto questa maturità personale e contemporaneamente calcistica, poi sei arrivato a Montevarchi, perché a Montevarchi a che età sei arrivato? Montevarchi sei arrivato, mi sembra, a 35 anni, 34. Comunque già arrivavi con una fama di goleador, perché almeno io mi ricordo da tifoso, quando arrivò il Cuccoli era uno che faceva gol, insomma, nei campionati precedenti aveva sempre marcato. Ogni tanto mi faceva. E com'è stato arrivare qui e poi vincere 3 campionati in 3 anni, si diceva prima, se non erro? Devo dire che, cioè, ora la gente può dire, vabbè, te lo dici così per dire, cioè, ma Monte, non lo so come mai, però un sesto senso, una cosa è tutta la senti, no? Ogni volta che passavo dallo stadio mi sarebbe sempre piaciuto giocarci, ecco. Però passavo anche dallo stadio a San Giovanni, però non mi veniva, cioè, già a Montevarchi è sempre stato un sogno fin da piccino, cioè quando seguì il calcio. Poi la gente è logica, tu dici, ti bocia pure già nella Fiorentina, perché tu sai che fosse la Fiorentina, cosa. Però lo so, cioè Montevarchi è sempre stata una cosa che ogni volta passavo dallo stadio mi colpiva, non so come. È come quando vedo una donna che ti garba e tu c'hai il colpo di fulmine, uguale. Come non sarà la montevarchinità? Forse era proprio la montevarchinità che girava nell'aria e Federico ne è rimasto folgorato. E Federico, allora, tu hai ampiamente dimostrato alla città di Montevarchi di essere uno che, seppur arrivato tardi nella sua carriera a giocare in questa squadra, comunque ha dato anima e cuore proprio per i colori rossoblù, per permettere la rinascita dell'Aquila, per la ripresa del volo dell'Aquila, e ci siete riusciti benissimo, tu insieme a tutta la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale dell'epoca. 3 campionati su 3, dalla seconda categoria alla promozione, sono campionati minori se si parla di Montevarchi, è vero, ma vincere un campionato non è mai facile, e questo tu che sei un calciatore probabilmente ce lo confermi. Ma quello che ti chiedo io è di scavare un po' nel tuo profondo torna un attimo alla mente alla telefonata X. Mi immagino con il direttore sportivo di allora, che era Tiziano Casucci, che ti chiese di iniziare a vestire questi colori. Cosa hai provato? Il tuo sogno si era avverato. Cioè, era un Portogallo, guarda, ma aveva un bel cano, era un Portogallo a fassetto. Quindi, cioè, stavo strano perché mi disse che era l'ultima telefonata che mi faceva, perché mi avevano tempestato le telefonate, non riuscivano a contattare. Mi chiamarono e io credo fosse uno scherzo, perché avevano molte parche, nel senso, a parte che voi eravate, insomma, da categoria lì. Però credo fosse uno scherzo, perché a Montevarchi c'era venuto i Bartoli e io gli dicevo: guarda, mi calbrebbe bene anche a me, madonna, tu sei fortunato. Quindi mi arrivò la telefonata, di solito si riceve un monte di scherzi, di cosa, se credo fosse uno scherzo. Perché all'inizio gli dissi che era una cazzata per attaccare. Invece buono, era tutto vero. Iniziamo un po' a ripercorrere questi 3 anni con la maglia rossoblu. Io partirei proprio dalla fine, perché tra l'altro lo stavo rivedendo ieri su YouTube la tua ultima partita, che era la penultima partita del campionato contro il Prato Vecchio. Montevarchi vince 3-0, vince il campionato, te entri, non so, a un quarto d'ora dalla fine, se non erro, a 5 minuti alla fine esattamente, e segni gol del 3-0. Me lo ricordo bene, guarda. Esatto, anch'io me lo ricordo benissimo, perché mi ricordo appunto che te segni sto gol dalla parte opposta, diciamo, alla curva, e dopo la rete fai questa rincorsa per ricevere l'abbraccio dei tifosi. Era una cosa che avevi programmato, che ti eri detto, e ne so, magari se segno vado sotto la curva? Cioè, com'è che funziona il cervello in quel momento? Cioè? Purtroppo queste cose non si programmano, perché se le programmi non si avverano. Cioè, io c'ho sempre le due e... Cioè, sono sempre stato in panchina, zitto, mi sono allenato sempre al 100%, anche se so che quell'anno sono stato ingiustamente tenuto fuori per determinati motivi che l'allenatore lo sa solo lui. Però io non mi ho mollato e non mi stavo mai rimasto sul culo quello, rimasto sul culo quell'altro, no. Per me il gruppo... Ho sempre tirato per il bene di Montevarchi, anche se, cioè, nel senso, giocare piaceva a tutti. E giocare 5 minuti dopo il campionato prima, ti avevi fatto 18 gol, insomma, un po' ti girano. Però l'accetti, perché c'è un allenatore, c'è uno staff, c'è i giocatori, e anche lì tu maturi. E sono sicuro, se mollavo prima, la soddisfazione di gol alla fine tu l'avevi. E poi a 5 minuti dalla fine, cioè, nel senso, quando, cioè, tu prendi il pallone e poi ero a 35 metri e lì ti passa, cioè, non è che tu dopo pensare, è da lì in poi, ad arrivare davanti alla porta, cioè, lì ti passa tutto, perché insomma tu dici, tu puoi fare gol, però anche a far gol non è facile. Infatti me lo parò, e insomma, dopo mi arrivò due giocatori, li scartai. E insomma, andava bene, ci vuole anche un po' di fortuna, però secondo me la fortuna te la devi cercare, secondo me, anche nel calcio. Se no è troppo semplice pensare sempre alla fortuna, okay. Alla sfortuna. E quel gol fu il tuo 40° gol con la maglia dell'Aquila, quindi diciamo una festa. Infatti la tua corsa sotto la curva, il tempo era anche un po' inclemente, perché era una giornata di pioggia, mi ricordo, e il popolo della curva sud che ti abbraccia idealmente separati dalla rete e ti offre anche una birra. Te la ricordi questa scena? Lì te la offrirono, io me lo ricordo, perché io me lo offrivo, ma anche troppo. Io raccanto uno, io mi ricordo, no, che si sporgeva con la birra. Io mi ricordo la volta famosa fu un'altra. No, quando la beve era un'altra partita. Quando la beve fu un'altra partita. E se era nel Casentino, che il Messi mi disse la voleva anche lui. Quindi, cioè, comunque anche lì me lo offrirono, però e bastava la chiedesse poi. Lì l'ha presa in volo. Invece Casentino l'ha presa in volo, la Bibbia l'ha rilanciata e l'ha ripresa in volo. Ora non mi ricordo chi era, perché... Però comunque dopo il Go, in cui il Go mi ricordo tutta la gente, insomma, stavo bene. E ho fatto questo aneddoto della birra un po' per scherzare su e per prepararti alla vera domanda che ti sto per fare. Allora, per uno come te, che hai giocato sempre nelle categorie qua in Toscana, anche di buon livello alla fine come Ambra, hai fatto dei grandi campionati, però cosa succede nella testa di un calciatore che arriva da quel tipo di esperienza e sale le scalette dello stadio e c'è una curva di una tifoseria organizzata che incita, che segue la squadra, il paese che ne parla durante tutta la settimana, che effetto fa? A me mi faceva un effetto positivo, poi forse a qualche altro no, però io, a me mi sale l'adrenalina. Io sono sicuro che anche a 60 anni mi salirebbe la solita adrenalina. Cioè, o tu là dentro, cioè è una cosa, o tu là dentro, se no non ti viene. Cioè, a me mi veniva quella forza in più, secondo me, ogni volta entrare in campo. Cioè, a me non mi pesa, cioè, più tifosi c'era e più ero contento. Almeno secondo che mi sentivo io. Cioè, io la sentivo la pressione vostra, perché anche, cioè, quando le prime partite, cioè, non andava bene, perché anche le prime partite qualche gol lo sbagliava, insomma, anche qualche offesa lo ricevuta, però l'ho sempre ricevuta, no, in modo negativo, ma in modo positivo. Perché quando tu ami una cosa, devo dire, guarda, Totò Arcadio, questa cosa della Monte Marchenità, come dicevate voi, insomma, lui ce la faceva sentire, che lui ci sentiva. Forse a lui gli è pesata questa cosa e secondo me ci sentiva troppo per la maglia del Montevideo. E quindi sentiva un po' una pressione nel momento che doveva dimostrare... No, pressione no, perché secondo me lui il carattere l'aveva anche troppo. Però a sentirci troppo tante volte... Certo. Ma però colgo l'occasione per farti una domanda, perché comunque in tutte queste puntate che abbiamo registrato si è parlato mai di Totò Arcadio, e comunque anche come giocatore a Montevarchi ha fatto cose incredibili, è uno dei giocatori più grandi della società da un certo punto di vista. Cioè, com'era essere allenati da Totò Arcadio? A livello proprio anche di impostazione dell'allenamento, anche tipo di consigli umani che ti dava da uomo a giocatore o viceversa? Allora, di consigli umani tanti, perché secondo me è una bella persona. Poi, cioè, nonostante tutto, io le prime 8 partite sono stato un panchino, e quindi quando io parlavo con lui, cioè, io te lo dicevo, io le cari il culo non te lo dico. Cioè, io giocare per, cioè, piuttosto sto un panchino a tutte e 20 le partite. E insomma, dopo l'ottava partita, cioè, a parte mi mise prima, cioè di spezzoni di partita, di 10 gol, però dopo 8 partite mi mise titolare. Insomma, io con lui ho avuto un rapporto bello, perché poi da lì, cioè, avevamo un rapporto scritto, cioè, lui me le diceva in viso, gli diceva in viso, cioè, non ci sapeva. Con lui, secondo me, anche calcisticamente, secondo me, stava un bel allenamento. Perdilo a me mi ha pesato, cioè, perché io, quando mi diceva te con me fa gol, io infatti lui i gol li facevo. E quindi, insomma, un po' a me mi ha pesato che lui fosse andato via, però il calcio purtroppo è anche questo. Tu sei stato allenato da un ex calciatore anche professionista, e da lui hai ricevuto tanti insegnamenti, e tu che però sei a tua volta nelle nostre zone comunque una persona molto conosciuta sia per il tuo ruolo di calciatore nelle varie squadre del Valdarno, e a Montevarchi hai fatto l'exploit della tua carriera, ma a pensarci un po', cosa ti è mancato per arrivare a ricevere l'opportunità di fare il grande salto? Questo... Però secondo me la cultura ci stia ai tempi quando ti devi maturare, sia a livello di testa che a livello calcistico. quando è tardi diventai 17 anni, più giovane che l'anno scorso, quindi dice io vado a fare le serate, perché sennò prendo le serate e il giorno il calcio. Cioè tu dici vado a fare le serate, divertirmi con gli amici, tanto ormai a calcio non ne sfondo più. Cioè, poi lo so, bisogna credici sempre, capito? Però io mi lamento di nulla, io sono contento di aver fatto questo percorso, perché tanto tornare indietro secondo me è inutile, cioè, ma poi cioè, io sono contento così. Poi cioè, a Montevarchi ci ho giocato, poi sono venuto sotto la curva, sono venuto indietro. Cioè, poi vabbè, la soddisfazione di essere professionista, vabbè, cioè, vabbè, vabbè. C'è anche una, questa soddisfazione di venire sul passo con la colpa di Montevarchi, io l'ho qua, e non è fuoco. No, assolutamente, poi secondo me, alla fine, ti ho detto bene, uno magari arriva a 17-18 anni, è chiaro che la vita del calciatore è una vita di estremo sacrificio, però comunque se la prospettiva è quella di stare in categoria e magari fare un par di comparsate in Serie C2, ammesso che esista ancora, forse non esiste più, o comunque in Serie D, tanto vale divertirsi, e se, come è capitato a te, riesci anche a fare alto livello, delle categorie che sono comunque dignitose, che poi ti hanno dato anche delle soddisfazioni personali, insomma, qual è il problema, ecco? Alla fine il calcio è lo sport nazionale, milioni di bambini ogni anno iniziano, e in Serie A comunque o nei professionisti comunque ce ne arrivano pochi, quindi d'altra parte il movimento è talmente grande. Un allenatore, il Banci, quando ero nel giro adesso a Pitini, se era un pullman si andava in teoria, e arrivò e mi disse che per avere soddisfazioni a livello calcistico si possano avere anche in categoria. Questa cosa mi è rimasta molto impressa, lo posso dire. Perché secondo me, cioè, il bambino inizia a giocare a pallone e pensa sempre ad arrivare a Serie A, Serie B, cioè, però secondo me Montevarchi, anche se tu ci giochi nel direttante nazionale o in promozione, in eccellenza, secondo me non è un punto di partenza, però secondo me può essere un punto d'arrivo. Cioè, uno di Montevarchi, Gianni Montevarchi, essere secondo me un idolo di riposo, secondo me è una grande cosa. E secondo me anche i genitori e anche i ragazzi se ne rendono conto. Però hanno una possibilità enorme, dove va bene poco su 1000 ne sponda 3, però se per 3 Gianni Montevarchi, tanta roba. Ma poi secondo me questo vale anche più generalmente per la vita, nel senso, uno bisogna anche essere accontento e che si dia degli obiettivi che sono proporzionali a se stesso, poi non necessariamente uno anche da un punto di vista ad esempio professionale deve puntare per forza a diventare il super top manager o il banchiere, ma può anche vivere la sua vita serenamente, il suo bello stipendio, le sue soddisfazioni, tutto è comunque proporzionale, le soddisfazioni vanno trovate in noi stessi, e questo è esemplificativo di quello che ha detto Federico. Lo stesso vale appunto nel calcio, secondo me, purtroppo le aspettative quando uno è bambino sono sempre quelle super, magari uno perché non gli tocca, perché non necessariamente può, no, se è di valore o meno, si sente un voglio di un fallito, però comunque una persona con dei limiti che poi gli pesano per il resto della vita, quando invece è sufficiente andare per gradi e trovarsi degli obiettivi volta a volta e poi essere soddisfatti di quello che sei in grado di fare. E come giustamente diceva Federico, lui comunque è venuto a risultare sotto la curva di Montevarchi, non è roba da po'. È una cosa che è toccata anche a calciatori che poi sono andati in alte sfere come Corradi, come Comandini, che hanno esultato anche loro nei loro anni sotto la curva di Montevarchi e poi sono andati e poi hanno spiccato il volo nel calcio. Ma quello che hai fatto tu non è riuscito nemmeno a loro, a Montevarchi, vale a dire avere il posto d'onore all'interno del covo dei tifosi rossoblu, ovvero il Bargiglio, per almeno 2 anni è stata esposta quella foto famosissima scattata dopo il tuo 40° gol con il Prato Vecchio e in concomitanza con la promozione del Montevarchi dalla promozione all'eccellenza, e quella foto è stata lì con la tua gigantografia. Cioè, ogni volta che entravamo al bar c'era Cuccoli che esultava sotto la curva, non c'erano altri calciatori che poi in carriera hanno avuto fortune più alte, e quindi questo proprio conferma il tuo discorso. Ma a te, a pensarci, che effetto ti fa essere stato così rappresentativo per una comunità come quella montevarchina, addirittura la gigantografia dentro al bar. Ah, questo ringrazio Filippo, una bellissima perché. Però ogni volta andava a esultare c'era dei personaggi e due parecchie volte lo strappava anche un giubbotto, quindi e, insomma, a me mi ha fatto piacere, diciamo adesso, però cioè, poteva mettere anche altre persone. Sei troppo modesto, Federico. No, però in realtà no, quella... forse perché con lui ci abbiamo un rapporto, cioè perché con qualche tifoso ogni volta andare a giocare c'è un rapporto veramente stretto proprio, quindi con lui c'è un bel rapporto, quindi ci ha messo anche per questo. E un'altra domanda per cercare un'emozione: la primissima partita che hai giocato al Brilliperi, che sensazione si prova uscire dal tunnel e sei dentro al Brilliperi, l'odore dell'erba? Questa è una cosa che altri ospiti ci hanno detto in trasmissione, cioè l'odore dell'erba del Brilliperi è particolare. Te cosa hai sentito? Cosa hai provato? Una volta l'emozione, cioè almeno a me, diciamo la verità, io non ero abituato a tutto questo, massimo 30 persone e mi dà gas, non è che cioè, è una cosa negativa, basta, e quando è una cosa positiva, secondo me l'emozione perché la vivi proprio al 100%. Tra l'altro i tuoi 3 anni sono coincisi appunto con l'inizio della rinascita della società, quindi anche da un punto di vista cittadino era un momento in cui dopo anni bui e di tristezza la passione andava salendo progressivamente con le vittorie che la squadra faceva, perché comunque se non si vince la gente comunque risponde lo stesso, quindi la cosa poi è stata una catena in un certo senso, no? Una ruota è girata e che si è autoalimentata. Come lo percepivi te o voi anche come calciatori questa nuova era dell'Aquila che stava partendo, anche da un punto di vista societario e magari anche il raffronto, senza magari fenomeno, lo so, alle società in cui avevi militato precedentemente? Ora, già a Montevarchi non è semplice perché, insomma, tu lo vivi tutti i giorni, poi con Tiziano, Picchione, Arcadio, cioè tutto lo staff, insomma, la pressione era tanta, perché se tu parli in quelle categorie, insomma, come l'Italia non andava a mondiale, insomma, è uguale, quindi la pressione c'è, cioè, lo posso negare, quindi poi vivere, secondo me si viveva tutti i giorni, cioè almeno io vivevo, cioè non c'era un momento che pensavo che dovevo fare la domenica, che dovevo fare l'allenamento, cioè, tutti i giorni sembra strano, la gente dice ma però io ci pensavo tutti i giorni. E rispetto alle società dove eri stato prima di venire a Montevarchi, il metodo di allenamento era lo stesso o era un po' diverso? Cioè, il metodo di allenamento si può giù cambia poco, te lo posso garantire, ma secondo me anche dalla Serie A, dalle volte è strano, ma tutto alleni, ti sembra di allenarti in modo sbagliato, quando fa tutte quante tende e la domenica giochi un calcio incredibile, poi ti metti a fare gli schemi e la domenica, cioè tutto secondo me, almeno ecco, percepito in questi 30 anni di calcio, penso che il gruppo voglia di tanto, proprio anche i miei giocatori, l'allenatore, lo staff, secondo me i metodi di allenamento cambiano, però ma tipo è minima, cioè, poi il discorso a Montevarchi c'era più, se ti posso dire che cosa c'era più, c'era ti allenavi di più con più intensità. E grazie a Federico Cuccoli anche Montevarchi ha avuto i suoi, non i suoi, diciamo il suo giorno di notorietà in un quotidiano sportivo nazionale, vale a dire la Gazzetta dello Sport, per una cosa successa in un campionato, mi sembra, di prima categoria, o forse era promozione, non mi ricordo, promozione, di promozione, quindi è un avvenimento, diciamo, incredibile. Ci vuoi raccontare, grazie a te, cosa è successo e come hai fatto a portare il nome di Montevarchi alla ribalta nazionale. Praticamente Gianni Picchioni arrivò e disse: entri subito. Vabbè, se entri subito, vabbè, andai nello spogliatoio. E poi dentro lo spogliatoio arrivò e disse: no, guarda, entri fra 10 minuti. E se non mi viene di pisciare, andai a riscaldarmi, perché disse, va a riscaldarti, perché andai a riscaldarmi, non più sa perché si sta 0-0 da Bibbinese, non lo so. Che ha visto la foga di entrare, che cosa avevo iniziato a pisciare, che dopo 10 minuti era iniziato il secondo tempo, cioè non è che hanno tirato l'ambulanza, hanno tirato al tendone per a pisciare, giustamente, perché io dovevo ritornare giù, fammi dare le chiavi ai custodi, apri la porta e cosa, cioè, ha fatto tempo per dirlo, e sicché pisciare dietro al tendone. Secondo me ho fatto bene, l'arbitro da 80 metri, non so come ha fatto a vedere. Ma perché tecnicamente l'arbitro l'ha scritto nel referto questa cosa? Arrivò l'arbitro, mi viene da me incontro, però io a un certo punto dissi, vabbè, ma morirà, non so. Perché di solito è successo nei campionati professionistici vanno a me, cioè vanno a buttare fuori. Quindi disse, sì, dice, vado a pisciare, sì, sì. Ah, ah, ma io mi ricordavo mi eri stato espulso. Cioè, sì, buttavo fuori. E mi disse, mi fece anche la battuta. Un arbitro simpatico, insomma, via. Non ferivo, perché sennò invece una di giornale per l'altra, però. Insomma, la figura fu per dire. Vabbè, sarebbe stato anche facile infierire rispondendogli, perché comunque la battuta te l'aveva fatta, ma ti aveva lasciato, diciamo, campo libero per poterci ricamare sopra. No, però non mi ricordavo assolutamente che eri stato espulso. Per questo, infatti, mentre ne stavi parlando, mi chiedevo com'è che poi stavo sei andata nelle cronache nazionali, cioè chi è che ha fatto la spia? No, la spia l'ha fatta l'arbitro e l'ha pure espulso. No? Questo era un dettaglio che mi mancava nella memoria. Sì, ma poi fu una cosa simpatica dopo, ma per me è un po' tanto simpatico, perché dovevi stare, cioè dovevi entrare. Poi perché una domenica ferma essere espulso per una pisciata, per poter fare la camera, però dopo sta simpatica la gente, non la mette a cura. Come noi ora, insomma. Mentre invece, com'è stata la tua carriera, Federico, la tua carriera di calciatore dopo il Montevarchi? Perché comunque ti stai ancora giocando e sono passati 3 anni da quando sei andato via da Montevarchi. Com'è proseguita? Cioè, com'è che prosegue dopo aver raggiunto l'apice locale di aver giocato e risultato sotto la curva sud? È stato semplice. Cioè, aver messo a Montevarchi, che poi l'anno dopo potevo continuare a giocare a Montevarchi, però devo dire, come uomo, me l'ho sentita, perché magari mi vedevo come, non come calciatore, perché come tifoso e come giocatore, praticamente andavo a campo ero un tifoso, ero diventato un tifoso. Cioè, io non ero un giocatore. Cioè, io vivevo questa cosa come tifoso. E quell'anno lì, cioè, con dirigente di Montevarchi, mi sono un po' d'accordo, perché, cioè, secondo me, l'uomo, il calciatore è una cosa, è donna. E quando, cioè, secondo me, si scalpisce la persona, cioè ti considerano, perché secondo me i soldi non erano importanti, secondo me, per giocare a Montevarchi, io venivo anche a zero. Non è che i soldi di Montevarchi mi arricchivano, cioè, era una cosa in più. Quelli che hanno giocato con me prendevano. Quindi per me era una cosa in più, quindi non è stato per soldi, non sono rimasto, ma per una cosa di uomo. Un giocatore di Montevarchi, cioè, se devo essere una cosa, se devo venire depresso a giocare a allenare a Montevarchi, allora è giusto fare un passo indietro e lasciare da vincitore con l'ultimo gol che rimane immortalato a Bargiglio, perché la foto è quella. E tra l'altro tu, insomma, dimostri coi fatti di essere comunque diventato alla fine un tifoso del Montevarchi, in questa trasformazione, diciamo, da calciatore a tifoso. Infatti, quando i tuoi impegni te lo consentono, ti presenti regolarmente allo stadio in curva per seguire la partita dell'Aquila. Ma appunto, i tuoi impegni extra calcistici, diciamo. Tu sei rinomato, alla fine è vero, in Valdarno anche per una tua passione, diciamo, che non c'entra niente con il calcio, anche se è comunque uno sport, ovvero il surf. Prima addirittura ci hai detto che la tua chiamata a Montevarchi è avvenuta durante un tuo periodo in Portogallo per fare surf. Ma come è che a una persona che nasce in un paese proprio in cui intorno ci sono solo montagne, il mare è lontanissimo, figuriamoci il mare per surfare, che ti viene la passione del surf? Com'è successo? Allora, la passione per il surf mi è venuta a tonfa, quando andavo a Porto de Marmi, Ria Litoria Maiori, la mia famiglia, e lì la passione per il surf, secondo me, c'è sempre stata, perché qualcuno aveva iniziato, e secondo me mi sembra che Viareggio mi sembra si prenda il primato come il primo a iniziare il surf in Italia. E c'era si prendeva io e dei miei amici di Riviera Maiori con il materassino e ci garbava sui windsurf. C'erano mia le tavole da surf, però questa passione delle onde c'è sempre stata. Poi piano piano, 18 anni, 19, quando iniziò i primi negozi di surf, comprai la prima tavola, provai da me solo senza rischiare di affogare, anche a volte perché con le mareggiate, cioè da solo prendevo da Piandisco, andavo a Porte de Marmi. Che per chi ci ascolta e non è toscano o comunque non ha ben chiaro, sono circa 250 km, insomma, più o meno. Quindi non è... cioè, la passione di surf, se ti prende la passione del mare, è una cosa che la gente può capire. Non dovresti tutto. È una cosa diversa. Se te il mare da solo. E questa tua passione per il surf da Viareggio ti ha portato in Portogallo, e questo ce l'hai detto, ma altre onde che sono famosissime nel mondo ti è venuta la voglia di provarle? Sì, provavo parecchi pesi, anche onde impegnative in Indonesia. Per fare un parallelo, l'onda di Viareggio è una squadra qualsiasi di seconda categoria, e l'onda di Bali o del Brasile è il Montevarchi in seconda categoria. E cavalcare quell'onda ti dava più o meno una sensazione che poi hai ritrovato giocando a Montevarchi? Ora, l'onda alle volte insomma è uguale, quindi come detto, settimane fa di Bologna ci sta anche 2-3 metri, la sensazione era uguale al 200, però c'è frequenza, quindi l'onde a Bali di 4 metri le trovo quasi tutti i giorni, a di Bologna le trovo una volta 3 settimane, qui la differenza. Benissimo Federico, siamo quasi in conclusione, ti facciamo le ultime due domande di rito, quelle sono toccate più o meno a tutti gli ex calciatori, ma anche agli allenatori. Il tuo gol più bello in maglia rosso-blu che ti ricordi, ora a parte l'ultimo di cui sei ovviamente straparlato, però tra tutti gli altri? Secondo me il gol più bello, mi ricordo la squadra, però sul passaggio di Dati, fece gol d'esterno destro, il secondo palo. Ora non mi ricordo la squadra, però quella partita mi sembra finisse 6-2. Una goleada. Secondo me quello ricordo. Mentre invece tra tutte le partite, quella che per te è stata più emozionante, ma anche a prescindere da Montevarchi in realtà, anche nel resto, diciamo, della tua carriera? No, per me la più emozionante fu Ariz, il primo gol a Montevarchi. Dopo il gol fece 100 metri di corsa tra Pomo e io. Però fu una liberazione, perché... E poi l'ho visto anche tempo fa, che il gol, perché mi rimandare dei miei amici... quindi per me qui quella partita fu la più emozionante. E un'altra domanda di rito per tutti gli ex calciatori e allenatori che arrivano nei nostri studi è questa: hai un rito particolare prima dell'inizio della partita? Ci hanno raccontato di calzini all'incontrario, accappatoi scambiati, una scarpa sì, una scarpa no, insomma le cose più incredibili. E la tua, se ce l'avevi, qual era? No, ce l'ho ancora, cioè nel senso, le mutande, i calzini, se fu gol, insomma, se sempre. Poi c'è una collanina, che sempre. Però le mutande, i calzini, i calparimenti di solito. Bene, e direi che siamo arrivati al termine di questa nostra puntata insieme a Federico Cuccoli, e noi ti ringraziamo tantissimo per la tua presenza nei nostri studi. È stato un volo bellissimo alla ricerca della Montevarchinità. Ringraziamo ancora una volta Stefano Neri che ci concede gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Ringraziamo il nostro regista di stasera Marco Brambilla e ringrazio anche il mio compagno di volo Julian Carax. Grazie a voi per l'ascolto e grazie a Federico per essere venuto con noi, speriamo ci sia anche una seconda volta, perché no? Io vi ringrazio e ringrazio veramente tutti i tifosi e tutti i di Montevarchi che mi hanno voluto bene, questo ve lo devo dire, perché è vero, è una parola. Con queste parole è arrivata davvero la fine, grazie a tutti e alla prossima puntata. Zanza. Poi che? Il regista. Vai, esci, qualcuno ci benvenuti pensa. A tutti. No, aspetta, parlo anche io. Allora si riparte. Vai. Ma tu hai avuto anche compagno di squadra e compagno di reparto un tale Christian Riganò. E come... Non ci sono stato e corregano, ho detto una alzata. La mezza tu. Esultato anche loro nei loro anni sotto la curva in Montevarchi e poi sono andati buonanotte, sono andati in culo. Oh, ma questo Brambilla, ma che cazzo è? Brambilla sembra un milanese, poi Brambilla c'è, cioè invece un canadese che è stato regista di Demolition Man e stasera è qui. Un canadese ha diretto Dennis Rodman, che c'ha il nome come uno di Scandicci praticamente. Bravo. E Sylvester Stallone, che ora c'ha dei problemi un attimino più diversi.